ad una perdita della propria identità, no? Spesso anche attraverso le interviste usciva fuori questo passato vagheggiato, no? Perché Sì. si attara come un portiere dove si sparava, però si sparava dove potevi tenere la porta aperta. Tanto per citare una cosa, no? Quindi ci si ammazzava, ma con molta più allegria. Oppure c'era la piana dei delinquenti, però erano persone d'onore, no? La gente buttata lì per terra come adesso, capito? Quindi è una visione del passato che è un passato immaginato e vagheggiato, forse il presente invece che viene identificato spesso e volentieri. Infatti, questi due oggetti sono proprio gli ultimi della classifica, della graduatoria, di che cosa fanno se la riprendono in continuazione questi migranti, no? Perché infatti un po' da sinistra, adesso sembra che si voti a sinistra solamente se si è ricchi. Quindi è interessante questo cortocircuito che si è creato e racconta anche uno spaccato della società. Un abbraccio, Ferdinando. Ciao, Ciao. ciao.